Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori, vi portiamo nel Golfo di La Spezia in questa puntata di Smart City e più precisamente nella baia di Santa Teresa, su cui i fondali all'inizio dell'estate sono state trapiantate, diciamo così, 60 alghe in silicone realizzate con una stampante 3D. Si tratta di copie di un'alga molto diffusa nel Mediterraneo, la Ellisolandia elongata, e il progetto si iscrive in quel filone di ricerche volte in primo luogo a comprendere che effetti dobbiamo aspettarci dal cambiamento climatico e in seconda istanza anche come cercare di mitigare questi effetti. Ma ci facciamo spiegare tutto da Chiara Lombardi, ricercatrice del laboratorio di biodiversità ed ecosistemi dell'Enea, che è evidentemente coinvolto nel progetto. Buonasera Lombardi. Buonasera a lei. Allora senta, qualche dato in più: il progetto è finanziato dalla Royal Society, coordinato dall'Università di Portsmouth, dove tra l'altro si trova a coordinarlo un'altra italiana che si chiama Federica Ragazzola, e vede coinvolti per l'Italia, oltre all'Enea di cui lei fa parte, anche il CNR. Allora senta, intanto le chiedo perché la vostra attenzione si è concentrata su questa alga che, come abbiamo detto, si chiama Ellisolandia elongata. Sì, allora, l'alga Ellisolandia elongata è un'alga estremamente diffusa in tutto il Mediterraneo ed è un'alga che si trova nella zona di marea, quindi dove abbiamo proprio l'onda che sale e scende. Infatti queste anche queste alghe di gomma, di silicone, stanno a mezzo metro di profondità, esatto, no? Esatto, esatto, sì, sta diciamo dalla superficie fino a circa 5 metri di profondità. Perfetto. Questa è diciamo la fascia di distribuzione della specie. E diciamo, quest'alga ha interessato la nostra attenzione per due motivi fondamentalmente. Uno, perché pur essendo un'alga estremamente tollerante, proprio perché vive in ambienti che sono soggetti a estreme fluttuazioni di parametri chimico-fisici, temperatura, esposta all'aria, poi nell'acqua, ultravioletti, esatto, di tutto. All'aria. Esatto. È caratterizzata dall'avere una struttura che per le alghe appunto si chiama tallo, composta a base di magnesio. Il magnesio è un elemento che è estremamente solubile alle alte concentrazioni di CO2, ossia ai bassi pH, quindi potenzialmente estremamente vulnerabile a quelli che saranno gli abbassamenti di pH previsti per il 2020. Cioè la famosa acidificazione degli oceani. Cioè questa è un'alga molto resistente, ma non ai cambiamenti di pH che invece prevediamo ci saranno a causa dei cambiamenti climatici. Ed è un'alga importante anche per un'altra ragione. Per un altro motivo, perché è un'alga che forma dei piccoli ecosistemi, quindi degli habitat estremamente importanti in cui tanti organismi, piccoli organismi che possono essere piccole stelle marine, piccoli gamberetti, vermi, eccetera, trovano riparo, possono vivere, si possono nutrire proprio all'interno di questo spazio, oppure semplicemente possono crescere i loro piccoli e poi prendere altre strade ed essere trasportati altrove. Quindi è sostanzialmente un promotore di biodiversità. E qui diciamo che la storia di Nemo ha insegnato a tutti, no, che esistono questi rapporti, per esempio, esatto, in questo caso fra i pesci e gli anemoni. Senta, ecco, senta, in questi quattro mesi, dicevamo, in cui questi avatar di alghe, diciamo, in silicone sono rimasti sommersi, che cosa è successo? E beh, in questi quattro mesi abbiamo già osservato un bel ricoprimento da parte di tantissimi organismi, partiamo sia da organismi vegetali, quindi alghe, microalghe, che anche proprio organismi invece come piccoli gamberetti, piuttosto che piccole stelle marine, piccoli vermi anche, crostacei di diverso tipo, piccoli gamberetti, quindi di fatto sembra che diversi organismi che sono presenti anche nella comunità naturale, ma questo lo andremo a verificare a breve, siano in grado di vivere e di popolare anche le nostre alghe artificiali. Quindi adesso il problema è capire quanto è cambiato questo piccolo ecosistema, se ho capito bene, no? Costituito dall'alga. È questo che voi volete capire? Esatto, la prima, diciamo, uno degli obiettivi del nostro progetto, oltre ovviamente alla realizzazione di Mimic, era proprio la colonizzazione di Mimic da parte Mimic sono è il nome di queste alghe di silicone. Esatto, Mimic, perché semplicemente mimano, certo, le alghe naturali. Esattamente, quindi i nostri campioni verranno analizzati da degli studenti dell'Università di Pavia che collabora con noi nel progetto e metteranno in luce quali sono gli organismi che vivono sia nell'alga naturale che nell'alga artificiale, per vedere se esistono delle differenze, se invece tutti gli organismi che sono presenti nell'una e nell'altra, diciamo, sono perfettamente adattati, no, dall'alga naturale all'alga artificiale, o se eventualmente ci sono delle differenze. Senta, adesso che fine faranno queste 60 alghe di silicone? Allora, il passaggio successivo sarà quello proprio di verificare l'importanza dell'alga naturale da un punto di vista di azione di mitigazione nei confronti della fauna associata al cambiamento climatico. Quindi che cosa faremo? Prenderemo tra un mesetto circa i mimic che sono rimasti in mare, li metteremo in vasca, prenderemo anche le alghe naturali e le metteremo in vasca, le terremo in condizioni di controllo e in condizioni di pH attese per il 2100. Quindi voi in questo ambiente controllato ovviamente non potete cambiare per fortuna l'acidità del mar Mediterraneo, ma potete farlo con una vasca d'acqua. Ed è quello. Quindi portate queste alghe popolate di questi organismi in una vasca e lì simulerete l'ambiente del 2100. Esattamente, esattamente, con l'obiettivo di vedere il ruolo esercitato dall'alga naturale, che ovviamente come tutte le alghe, quindi come tutti gli organismi vegetali fotosintetizzano, quindi di fatto utilizzano la CO2 e rilasciano ossigeno. E quindi vedremo se ovviamente avremo l'alga artificiale, che è un'alga inerte, che non svolge questo ruolo, che cosa succederà in assenza di questo ruolo, quindi un organismo vegetale, alla fauna naturalmente associata. E quindi quello che ci aspettiamo, vedremo, ma quello che ci aspettiamo di fatto sarà una perdita enorme degli organismi che vivono naturalmente associati ai nostri mimici. Cioè soprattutto di biodiversità, cioè potrebbero esserci tanti organismi ma di poche tipologie, invece che avere quell'ecosistema ricco e complesso che c'è attualmente. Senta, lo scopo di questo esperimento non è quello di mettere a punto dei sostituti per le alghe nel 2100, cioè non è che queste appunto che queste alghe in silicone abbiano questo obiettivo, ma quello che abbiamo spiegato finora. Però questa non è un'ipotesi totalmente esclusa, cioè quella di come dire, intervenire in alcune aree perlomeno con una sorta di ricostruzione artificiale dell'ambiente. Esatto, esattamente. Diciamo che, come diceva lei, giustamente, assolutamente, noi non vogliamo questo, non vogliamo utilizzare queste alghe di silicone, cioè assolutamente a sostituire gli ambienti naturali, assolutamente no. Però diciamo dei progetti che riguardano la cosiddetta habitat restoration, quindi il recupero di zone particolarmente sfruttate, particolarmente impoverite a causa di un sovrasfruttamento, per esempio della costa, di alcune zone di mare, potrebbero prevedere l'utilizzo, per esempio, di organismi che già esistono nell'ambiente, che vengono per esempio utilizzati nella produzione, come possono essere i mitili, come possono essere le ostriche. Qui nel Golfo di La Spezia vengono ampiamente coltivate, sono un'importante parte della produzione e dell'economia del Golfo, e che però rappresentano un problema in qualche modo per la mitilicoltura, perché i gusci sono uno scarto. Quindi questo scarto dove viene utilizzato? Alcuni di questi vengono frammentati, utilizzati per esempio nella zootecnia o anche nell'agricoltura, però una parte sarebbe bene che rimanesse in mare. Quindi poter utilizzare per esempio dei substrati naturali come i gusci e uniti magari a dei materiali, dei biomateriali che si stanno studiando, dei materiali che possono essere riciclati, che quindi adeguatamente studiati non causano danni all'ambiente, potrebbero permettere, con appunto insieme alle tecnologie, quindi con l'utilizzo di materiali che permettono la creazione di strutture tridimensionali, per esempio, che facilitano l'adesione di certi organismi, esatto, la colonizzazione da parte di organismi specifici adeguatamente studiati, naturalmente potrebbero rappresentare un'ottima risorsa. Ecco, quindi insomma, utilizzare gli scarti dell'acquacoltura, questi gusci, lei dice in particolare dei miti, cioè delle cozze dette volgarmente, o delle ostriche, per esempio, per recuperare alcune aree particolarmente malmesse, naturalmente. Certo, questa è una prospettiva sulla quale state ragionando, o comunque si riflette. Assolutamente sì, ci stiamo ragionando, anche perché questo stesso progetto della Royal Society coinvolge molte delle realtà locali, tra cui anche i mitilicoltori, e è proprio grazie allo scambio con loro che è venuta fuori questo discorso dei gusci, ecco, che sono diciamo molto, molto importanti, ecco, per loro rappresentano un problema. Quindi sì, perché no, ecco, magari pensare a del futuro della ricerca in questa direzione. Eh beh, certo, poi alla fine la barriera corallina è fatta dalla stessa materiale di cui sono fatte le gusci delle cozze, bene o male. Assolutamente, no? Cioè, assolutamente sì, carbonato di calcio. Va bene, grazie Chiara Lombardi, buon lavoro. Grazie mille, grazie a lei e grazie a tutti. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì, buon fine settimana a tutti voi.